Logos, ascoltate da Imperial Flood, un disco veramente eccezionale per molti aspetti, soprattutto nella ricerca di quello che abbiamo voluto chiamare ritmi e astrazioni. E qua veramente c'è una dialettica sul serio speciale da parte del, appunto, di James Parker, Logos, proprio nel riuscire a fondere, a essere sintetico fino in fondo, potremmo dire, poi continuando, insomma, anche questa che è una ricerca che sembra non chiudersi, insomma, con i primi lavori della seconda metà degli anni 10. Ma sembra, insomma, che debba anche continuare, perlomeno come tendenza, insomma, sperimentale, e appunto questa sintesi straordinaria tra, appunto, ritmicità, ricerca ritmica e suoni astratti che vanno tanto dal distopico quanto verso una sorta di mondo immaginato in maniera altra, quindi un altrove evidentemente sonoro, un po' come quello di Dead Grips, solo che Dead Grips spingono forte su quello che è proprio il segno distopico delle loro musiche, è una rabbia che si lancia verso un futuro che sembra veramente quasi irreversibile nel suo farsi assurdamente retrivo, assolutamente chiuso, e quindi Death Grips inventano quello che poi è, nel corso degli anni 10, uno dei suoni più senz'altro più innovativi per quanto riguarda l'hip hop, ma non solo. E riescono a dare il duo di californiano di Sacramento, riescono a dare, appunto, a quelle che sono musiche che provengono direttamente dall'hip hop, quell'immaginario che ad esempio abbiamo trovato negli anni zero, per quanto riguarda un disco come Cold Way, Cannibal Ox, ma buona parte di un hip hop anche spesso con anche bianco, potremmo dire, è riuscito a trovare quelle forme che erano dentro poi le forme distopiche, se vogliamo, già dentro quelle forme di elettro che poi diedero appunto da una parte la filiazione techno e dall'altra quella appunto hip hop. Dead Grips quindi hanno questa questo fil rouge, potremmo dire, ecco, citando anche appunto 451 frammenti sonori, e con Money Store, disco del 2012, portano proprio a compimento e a un ulteriore passaggio, potremmo dire un suono che è sempre stato in certo hip hop, di certo non in quello, si potrebbe dire, della West Coast, perché più legato insomma al gangster rap, mentre quello insomma dell'East Coast, Public Enemy e facendo più sicuramente più politicizzate, ecco, seppur appunto questa sorta di gangster diventa appunto un mondo appunto distopico, anche in termini di quasi una sorta di chiusura sonora, di suoni incombenti, potremmo dire, da parte di Death Grips, che ci andiamo appunto ad ascoltare dal loro Money Store. Got blood rush to my head, they hot like popping off the fucking block. Now clock and wristlet watch bent up off. Dragon volume blasting, bailing out my brain. Red light flash, dim stop, I smash. Abraxas, hydroplane, massive. That's his fight for rain and madness. Massive mind and laser app with black that fist on the razor stratus. Curb like the far that flying. Don't wait for me if I care about anything, anywhere. Losing myself, I get the stairs when I'm looking at. Wasn't there, wasn't there, wasn't there. Wasn't there, wasn't there. Nothing out there against me inside. Hit the ball, sleep deprived, he drove the car. I'm still alive, up in smoke, moon is low. As you know, didn't say I did. Who's this, know what this is? But do you know? Yeah, got blood rushed in my head. They hot lock popping off the fucking block. Now clock and wrist, they watch bent up. I fly inside, I block and fix. I slip, so I take better when he quits. So many ways to skin the frame. Remember when first shot strays. Now just thinking, life away, so what comes next? Right away. Right away, right away. Right away, right away. Race curve, guilty drug. Come black out, cover the sky. Don't keep people of your eyes. Sip this music, kid and I. Looking through you, mastermind. Feel mercy, man, cry. Yeah, I'm knowing it, you know what. Every mental evidence, I'll pretend, hold me, get crucified. Can't close this here. What's the cost? Meet your head, but I'll end up lost. Should be asking, where's the sex? But with a ski mask on my face. Yeah, got blood rush in my head. They hot, like popping off the fucking block. Not clocking wrist, they watch bent up. Yeah. Dropping manic cycles, fire water burning Bibles. Break up raging cold attacks and take me to the nearest city. Sell out of me, yeah, get at me. Make it quicker, blood, I'm busy. Bit busy. Put a hole into my head, fist the bone, felt the breeze. Lift my thoughts up into bed with a paper crop skeleton wing. No nothing since then, but seen me floating to the next, it's spreading dream. Got blood rush in my head. They hot like popping off the fucking block. Not clocking wristlet, watch bent up. Got blood rush in my head. They hot like popping off the fucking block. Not clocking wristlet, watch bent up. To be better and challenge me for the best. Let me find my sleep. take off your shoes, take your shoestrings, take off your cufflinks. What you wanna eat? Let me feed you. Let me run your bath water, whatever you desire. I'll slay ya, sing you a song. Turn the game on. I'll brush your hair, help you put your durag on. Water for the rug, water manicure. Baby, I'm yours, I wanna cater to you, boy. Let me cater to you, cause baby, this is your day. Do anything for my man, baby, you blow me away. I've got your slippers, your dinner, your dessert, and so much more. Anything you want, let me cater to you. Trump's America, first podcast ever. Shout out Lil Life Scum Productions. Shout out Barbara. Shout out Barbara's mom. Dedicate Cut, successor out now and non-worldwide. Support the artist and the label. When you're loved all the way to the other side, can you really die? Yes, sir. It's up for interpretation. Yes, sir. I persist for chicken. What came first, the chicken or the egg? Self-loathing and hatred, it leads to killing chicken. It's full of tears, and chicken is very hard to kill. It's a full short film, which turns out to be delirious, but still quirky and sweet at the end. About chickens and eggs. And references to Georges Bataille and other cool things. Thank you. Yeah, I think we gotta wrap it up. We kinda getting kicked out. We're supposed to end it. Whatever. We pushed it. We pushed it. This is Trump's America. Nothing even matters anymore. Let's go. Jesus isn't coming back, somebody show me a sign. Jesus isn't coming, we've had this on the side. Somebody show me a sign, Jesus isn't coming back. This not lashing this rage. Somebody show me a sign. Jesus isn't coming back, this not lashing this. sign is something that conveys meaning to someone. Road and traffic signs, for instance, have an explicit and obvious meaning. We all agree on what they mean because they transmit clear information and give instructions. Semiotics in brand and marketing specializes in analyzing the more subtle signs that we process effortlessly, often without conscious thinking, which work to persuade us or even change our behavior. The latest developments in psychology and neuroscience have shown that the human brain is great at associative thinking. This means we have a tendency to make connections and associations and efforts semiotic studies will all be naturally. Clothing is a science system. The way I'm dressed in this video, the same content, the colour interpretation of me, is a personal dal suono decisamente distopico di The Grips a quello che è forse il, potremmo dire, un suono iperrealista, l'iperrealismo dei giorni più capitalisti, visti perlomeno in termini di Hive Tumor, di The Kind, Chinoa Moby, The Kind Cat, che insomma sembra un po' difficile per pronunciare, ma a parte insomma che da queste parti l'anglosassone, insomma, la lingua del padrone è ancora come dire un po' sconosciuta. E poi appunto c'è anche questi giochini di parole appunto da parte di Dead the Kind, dovrebbe essere così, Cat, e con Cinema Bobby, quindi tre sorte di guastatori, con una sorta di musicalità, di attitudine che potremmo dire transgender, veramente in senso decisamente lato, anche appunto sonoro, e poi quello che il suono del realismo capitalista più aberrante, anche qua quello di James Ferraro con il Far Side Virtual. Far Side Virtual, tra l'altro, James Ferraro che per gli anni zero è stato uno dei guastatori, anche in termini proprio di qualità sonora, uno dei più grossi ricercatori di un suono assolutamente allucinante per ordine di grezzezza appunto di anche matrice proprio di suono, che andava appunto alla ricerca di materiali che talmente affettati, talmente pieni di eco, talmente risonanti in maniera cacofonica, che rendevano le opere di Skaters, quello appunto il progetto storico di James Ferraro, ma poi anche con i primi dischi solisti, proprio un suono da non da scantinato, ma proprio da grotta, potremmo dire, da grotta però magari anche cementificata, quindi con quella sorta appunto di suono non soltanto primitivista, ma con quell'accanimento appunto dato anche dalla una New York decisamente urbana e urbanizzata, anche nel suo essere appunto poi paradossalmente, in termini sonori perlomeno è stato così, quando c'è stato il trasferimento appunto dalla California a New York di James Ferraro, quindi una sorta anche di cementificazione appunto di suono che da primitivo diventava qualcos'altro appunto con un impatto metropolitano deciso anche, e poi appunto una svolta radicale, quella di Far Side Music, che è stata anche piuttosto discussa, certo, da chi segue le musiche underground, anche se poi di fatto si è giocato su una pulizia sonora, anche se abbiamo ascoltato poi Dream On, che di Far Side Virtual probabilmente è uno dei pezzi anche più sporchi rispetto proprio a sorte anche di musica che potremmo inserire tranquillamente dentro cellulari, o utilizzare per anche sorta di muzak, insomma, che accompagnano la quotidianità metropolitana, ovviamente in questo caso quella appunto di James Ferraro, e proprio questo cambio radicale e questo lavorare sulle musiche e i suoni della New York capitalista. Si parlava di un James Ferraro che andava su e giù per la Quinta di New York, entrando dentro negozi anche piuttosto di alta moda, ma non solo, con il bibitone, con il suo fare, insomma, così tra lo snobistico e il disimpegnato, che appunto diventa quasi hype, o anzi senza quasi. E è appunto una registrazione sul campo di quello che è il suono del commercio, della quotidianità appunto legata a un sistema ipercapitalistico. C'è stato anche appunto qualche commento di James Ferraro rispetto appunto anche alle critiche che sono state mosse al suo lavoro, quindi per questo sicuramente un disco epocale, magari non bello, e in questo senso ci rimettiamo insomma anche nelle mani del vecchio James Ferraro, appunto, come Skaters, quando il suono era decisamente brutto e volutamente tale. Beh, in questo caso è pulito, ma è molto poi ha un effetto anche qua brutto, forse proprio per iperrealismo, come d'altronde con Hive Tumor, The Kind Cat e Cinamobi con il loro Trump's America, questa sorta di parodia che sardonica, che diventa insomma anche insomma una spia di una sorta di malessere, con tutte queste frequenze e queste musiche che in maniera molto anche confusa attraversano una sorta di flusso negativo, potremmo dire, seppur con questa vaghezza anche così di gioco o di scherzo, anzi per meglio dire, visto che si sta parlando di Trump, dell'America di Trump, e quindi veramente di un bruttissimo scherzo, e da quello che è appunto una sorta di distopia iperrealistica, potremmo dire, per alcuni aspetti. Beh, è uno dei suoni che ha fatto discutere anche lui, non cattivo, potremmo dire, primitivo, neoprimitivo, ecco, come James Ferraro, ma sicuramente Daniel Lopatin, come Onitrix Point Never, inizia con una sorta di noise cosmicheggiante e con una synth music, però dove suona comunque male, dove c'è un'utopia che fa molto rima poi in realtà con distopia, una sorta di sintopia, se vogliamo, è un termine insomma che non si sa quanta fortuna possa avere, però per le musiche di Onitrix e soprattutto per quello che poi sarà lo sviluppo di quello che è stato definito il suono like digital, high definition, HD insomma, detto in maniera insomma molto più smart, sicuramente è uno dei se non il padre, insieme a James Ferraro, di quel suono nel male e nel bene, con anche momenti, se pensiamo a Replica, anche lui di grosso passaggio storico disco, anche qua dove non si sa quanto poi sia veramente nell'estetica anche diciamo del brutto, no? Del brutto nel senso di appunto legato a quelle che sono suoni noise, industrial, eccetera. Beh, in questo caso qua il brutto invece appunto è con suoni, ma soprattutto anche con strutture che potrebbero insomma far ricordare certe forme di quasi di New Age, che però si fa in pompa magna, quindi diventa anche una sorta di aberrazione, ecco, in questo senso, portandola appunto verso questo non luogo, potremmo dire, sonoro che Onitrix sta creando insomma da abbastanza anni, sicuramente per gli anni 10, da Replica, se non addirittura da Returnal in poi. Ci andiamo a sentire con però quello che è a tutti gli effetti una suite for Magnetic Rose Playback, dato legata anche a un immaginario e a un proprio un disegno cinematografico che appunto viene sonorizzato in questo caso proprio da Onitrix, e beh, probabilmente il papà in combutta, potremmo dire, del suono appunto HD in combutta con James Ferraro. Onetrix Point Never, che riesce anche a essere evocativo utilizzando suoni decisamente puliti per un lavoro che accennavo prima, legato al cinema, a una sonorizzazione di cinema di Nabucco Namiki, e forse anche questo ha fatto in modo che, come dire, per un momento quel suono HD di Onetrix Point Never, che veramente sta arrivando quasi a una sorta di fusion elettronica, potremmo dire, dei nostri giorni, invece in alcuni momenti veramente, ecco, sicuramente questo è uno, in Suite from Magnetic Rose, si accende quel potere evocativo che stava nel primo Onetrix Point Never. Poi per molti versi, insomma, quello che è lo sviluppo, insomma, del suono HD sta portando anche risultati, insomma, piuttosto interessanti per quanto riguarda, appunto, i nuovissimi, potremmo dire, ecco, citando, insomma, le avanguardie storiche proprio nostre italiane, ma solo, appunto, come citazione simpatetica, ecco, potremmo dire, perché di fatto, insomma, per molti versi sì, è un suono che può dare nuovo, ma non per forza, insomma, spostare in avanti verso, appunto, quel futuro che magari è più dentro opere come questa, appunto, suite dedicata al cinema di Namiki. E per parlare di suono HD, prima Gens Ferraro, ora ancora in sottofondo Onetrix Point Never, quello di Olli Herndon sicuramente è un suono HD, però pieno veramente di una vitalità, e potremmo dire anche di vitalismo, dentro un suono che si potrebbe, appunto, perdere in una freddezza anche piuttosto, insomma, sterile in termini sonori. In realtà, appunto, c'è una vitalità, una forza in tutti i lavori di Olli Herndon. Appena si supera quel momento di impatto, appunto, freddo, forse è proprio come il ghiaccio, c'è un momento, appunto, di avvicinamento, appena si tocca, insomma, sembra quasi di scottarsi, no? E per poi invece, appunto, arrivare a una sensazione che poi è, appunto, di scioglimento, se vogliamo, scusate, insomma, la fin troppo facile, insomma, similitudine, proprio di scioglimento di ghiaccio, e quindi anche di una sorta di riscaldamento che si ha, appunto, con le musiche di Olli Herndon, soprattutto poi, tra l'altro, adesso lo andiamo a prendere uno dei primissimi lavori, ma nell'ultimo proto di qualche mese fa, si ha proprio una forma che, tra l'altro, è resa umana dal fatto che proviene, appunto, da sorgente umana, cioè la voce, che è molto utilizzata da Olli Herndon, è sempre stata utilizzata, e la sentiremo anche in questo respiro Brit, come riesce a rendere, appunto, vitale il respiro, quello che già di per sé, insomma, è vitale, ma anche, appunto, in termini di traslazione sonora, musicale. E con l'ultimo proto, il lavoro vocale, la ricerca tra, appunto, manipolazione del suono vocale, raggiunge veramente vette piuttosto interessanti per quanto riguarda proprio lo sviluppo anche di elettroniche che, muovendosi su terreni che sembrerebbero territori freddissimi, glaciali, poi in realtà, appunto, tendono a scaldarsi, proprio come nel suo Movement, disco degli anni 10, che, appunto, probabilmente ha fatto conoscere Olli Herndon, e poi ha fatto esplodere anche il fenomeno per molti versi, non in termini pop, però sicuramente di emersione, ecco, dall'underground Brit. Thank you. imparentato sicuramente con l'HD di Onyx Point Never, e seppur con sonorità che sono probabilmente più mutanti anche proprio in termini di atteggiamento, potremmo dire generale, quello di Arca è un atteggiamento appunto che muta, come muta insomma la sua ricerca sonora, e come sta mutando in effetti negli ultimi anche periodi, e da appunto la mutazione o dalle mutazioni di Arca, le mutazioni di Amnesia Scanner con Pan Dajing, così come dire, cerchiamo anche di ripercorrere, di così chiudere un cerchio che non è possibile chiudere, appunto forse perché è appena aperto, con le elettroniche cinesi e appunto con questa commistione e questa collaborazione molto molto potente per molti versi, anche nello scardinamento di quello che potremmo considerare veramente una sorta di pop definitivo, di hip hop o di hip P.O.P., e quindi veramente un suono che sì, si fa sul serio iperbolico. Vi lascio con Amnesia Scanner, appunto Pan Dajing, ci sentiamo appunto per un prossimo 451, sempre 2020, sempre una sorta di percorso, ecco, di riflessione di due punti sugli anni 10. Ciao.